A tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Sì, avete capito bene, eh? Anche se qualche ascoltatore sembra incredulo il risultato che vi ho letto prima relativo al campionato olandese. È vero, almeno così dicono le agenzie, il PSV Eindhoven ha battuto 10-0 il Feyenoord. Feyenoord, che è una squadra di buon nome, ho fatto il primo parallelo che mi è venuto in mente come se fosse Inter-Roma, grosso modo. Comunque, dopo l'Euro settimana in cui abbiamo preso botte e gol, torniamo nel nostro orticello in cui partite da 10-0 non ce ne sono, ma c'è la Lazio che è sempre prima in classifica. Allora, subito, prima di raccontarvi le partite e i gol, vi faccio sentire Eddie Reia, che ieri ha detto: qualcuno mi considerava bollito. Evidentemente bollito non è. Reia con Sky. Cagliari ormai non aveva niente da perdere, si è buttato avanti. Noi abbiamo avuto una palla con Rocchi, c'era un rigore forse, dubbio, non lo so se c'era o no. Abbiamo avuto altre opportunità, chiaro, non abbiamo giocato come abbiamo fatto il primo tempo, perché quando subentra un po' d'apprensione, un po' di timore, è chiaro che poi viene fuori la sofferenza. Però questa squadra ha dimostrato grande carattere, grande determinazione, ha lottato palla su palla e bisogna fare i complimenti ai ragazzi, perché non è facile giocare contro il Cagliari. Se vediamo le partite che ha fatto Cagliari fuori casa, ha fatto spesso dei risultati, a parte Torino, pareggiato a Palermo, pareggiato a Bari, ha pareggiato a Chievo, guardando la classifica, guardiamo anche Chievo, di conseguenza non tutte le partite sono facili. Noi dovevamo fare a meno di prendere questo gol al secondo tempo, c'è stata un po' di deconcentrazione e questo non deve succedere a una squadra di rango come siamo noi. Bene, mi piace sentire. Squadra di rango come siamo noi, ma ha ragione, direi. Secondo me la Lazio merita e meriterebbe comunque, perché condizionale serve ancora, lo scudetto al primo intertempo, che è quello delle feste di ogni santi che cadranno alla fine del prossimo weekend. Sarebbe uno scudetto tra molte virgolette estremamente meritato. Se non ci credete, vi do anche i parziali ma prima di cominciare a parlare del nostro campionato, vi do anche i parziali di questo incredibile PSV Eindhoven Feyenoord. Dunque, PSV, vi leggo l'agenzia, primo in classifica, ha inflitto ai rivali di Rotterdam, terz'ultimi qui in questo campionato, la più pesante sconfitta della loro storia, che comprende anche una Coppa dei Campioni vinta nel 1970. La Roma non l'ha vinta la Coppa dei Campioni, quindi il parallelo che ho fatto prima già non ci sta. Comunque, rovescio peggiore del Feyenoord fino ad oggi era un 8-2 subito dall'Ajax nell'83. Nella partita giocata al Philips Stadium hanno segnato 3 gol il brasiliano Reis, 2 ciascuno Lens e Duzdak, 1 a testa Toivonen, Affellai ed Engelar. Il Feyenoord ha giocato in 10 dal 34esimo per l'espulsione del centrocampista Lerdam. Questo il tabellino di questo PSV Feyenoord 10-0, ma veniamo ai tabellini di casa nostra, dove prima avete sentito una battuta di Eddie Reia, secondo tempo di difficoltà per la Lazio, che era partita forte, ha trovato il gol al 21esimo, punizione di Hernanes, respinta, batti e ribatti in aria a destro di Flocker, a mettere d'accordo tutti, quantomeno certamente i tifosi laziali. Gol di rimpallo, così come di rimpallo, a testimonianza del fatto che in questo momento all'Aquila gira tutto per il verso giusto, di rimpallo al 7° della ripresa il gol di Mauri, su un cross di Flocari che gli è grosso modo rimbalzato sul petto. Poi però il Cagliari ha rialzato la testa, ha segnato con Matri, bellissimo il suo gol, in questo caso su un errato disimpegno di Radu, che ha allargato un pallone abbastanza incomprensibile, crossato poi da Kossu dalla destra, tuffo di Matri, molto bello il gol del 2-1, e Cagliari che nel finale ha messo, come detto, in difficoltà la Lazio capolista, che comunque mantiene la posizione, aspettando poi l'Inter di questa sera in casa contro la Sampdoria. Manterrà la Lazio questa posizione, anche perché la Juventus oggi è stata piuttosto brutta a Bologna. Sembra che tutti i guai derivino dall'infortunio di Grigera, che poi certo non è un mostro, però l'argomento del momento, del giorno, sembra questo. Una Juventus in cui oggi peraltro abbiamo visto due episodi strani, due rigori totalmente regalati, che però per giustizia delle divinità calcistiche sono stati entrambi sbagliati. Uno di questi lo ha sbagliato proprio la Juventus al 34esimo. Krasic si tuffa letteralmente in area su uno pseudo contrasto, perché in effetti non c'è stato alcun contatto di Portanova, tuffo di Krasic, passibile senz'altro di simulazione, invece De Marco concede alla Juventus il rigore, Iaquinta fa un tiraccio e Viviano lo para. Al 18esimo fuori Krasic, oggi non brillante, dentro del pieno ma risultato che non cambia. Quindi il Chievo nel finale riesce a vincere sul Cesena e si porta al quarto posto in solitudine. Grande il Chievo di Stefano Pioli. 2-1 al Cesena, Chievo che era andato in vantaggio al 31esimo, magnifico cross di Pellissier, oggi in versione rifinitore, e colpo di testa di Cesar per 1-0. Il pareggio del Cesena era arrivato al 45esimo del primo tempo con un tiro di Jimenez maldestramente deviato da Guana nella sua porta, dunque autorete per 1-1, e poi al 91esimo Turò in mischia, primo gol per lui in questo campionato, dava la vittoria al Chievo. Qua, il Genoa batte 1-0 il Catania, partita in cui è successo non moltissimo in realtà, decisa al 23esimo della ripresa da una delle bandiere del Genoa, cioè Marco Rossi, capitano. Cross di Raffinha dalla destra, Spolli che incomprensibilmente lascia passare quel pallone, Marco Rossi sul primo palo che segna il gol della vittoria del Genoa. Quindi da segnalare altro rigore incomprensibile e non trasformato in Lecce-Brescia. Il Lecce ha battuto 2-1 il Brescia, per la verità Brescia che non meritava questa sconfitta, è partito subito forte, la squadra di Iachini ha trovato una traversa piena al 12esimo con e quindi colpo di testa di Caracciolo salvato sulla linea di porta da Rosati, poi al 19esimo il vantaggio del Brescia con lo stesso Caracciolo. Nella ripresa il Lecce ha costruito la sua vittoria al nono Ofere su cross di Michele. Al 14esimo questo contatto che a me è sembrato tutt'altro che irregolare di Tuna, giocatore della Brescia, l'arbitro Peruzzo concede il rigore, Di Michele colpisce in pieno la traversa, ma 3 minuti dopo al 17esimo segna uno dei gol più belli di giornata raccogliendo al volo un lungo traversone da destra e segnando in diagonale. Quindi l'Udinese frena la corsa del Palermo che aveva fatto 10 punti nelle ultime 4 partite, ma è una squadra che difende abbastanza male in certe situazioni. Udinese in gol al nono, palo di testa di Inler e tapin di Benatia, difensore al secondo gol in questa stagione, in questo campionato. Al nono rigore, in questo caso piuttosto solare, trattenuta di Cassani su Zapata, trasforma Di Natale, nono della ripresa naturalmente. Udinese che resta in 10 al 20esimo per espulsione di Coda, doppia ammonizione. Al 38esimo il gol con il quale il Palermo prova a riaprire la partita è uno dei più belli anche qui della giornata, un destro da lontano violentissimo di Nocerino, la respinta da parte del portiere udinese e quindi un tiro al volo violentissimo di Piniglia per il gol del 2-1, ma la partita finisce così. Dopo il traffico vi do la classifica e vi faccio sentire qualche altra voce. Strade in diretta. Sull'autosole i 2 chilometri di coda in direzione di Bologna per un incidente tra Firenze Sud e Firenze Certosa. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per un cantiere, si rallenta in direzione di Pescara tra Pedaso e Grottammare, mentre in direzione Bologna per lo stesso cantiere altri rallentamenti tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Lungo la statale 163 a Amalfitana rallentamenti nei pressi di Positano nelle due direzioni per olio sull'asfalto. Sulla 9 Lenate Como Chiasso ci sono code in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e la dogana di Chiasso per operazioni doganali. Attenzione infine ai banchi di nebbia sulla 15 della Cisa tra Borgotaro e Berceto e alla pioggia che si incontra in Liguria, Toscana, Veneto e tra Lombardia ed Emilia. Per ora è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Dunque io adesso vi faccio sentire Malesani, allenatore del Bologna, in diretta con Sky. Volandosi verso l'area, vabbè, non importa, è andata bene. Ilaria. Vorrei chiedere a Malesani se lei si aspettava in qualche modo che il giocatore avesse, non so, un atteggiamento diverso. Del rigore di Krasic, di questo tuffo clamoroso di Krasic. L'avete visto? 800240024. Che ne pensate? 800240024. Malesani pensa questo. No, succede. Credo che fra l'altro Krasic sia un bravo ragazzo, ecco, così l'espressione anche del suo volto, il suo modo di giocare, credo che sia un bravo ragazzo. Però Non è facile, sarebbe stato un bel gesto e avrebbe reso giustizia anche all'arbitro e quindi l'avrebbe aiutato. E vabbè, non importa, ho detto, ripeto, in giornate come queste sai che qualcuno lassù ti guarda e ti dà una mano. Alesani, mi scusi, due cose, la prima è un po' tecnica, mi è sembrato che a volte il Bologna abbia rinunciato troppo. La Juve premeva ma non era pericolosa, il Bologna aspettava, era la partita che voleva fare. Sì Mario, noi dovevamo tornare ad essere umili, sai quando devi riprendere un po' le misure, i tempi, il modo di giocare, e oggi ho azzardato meno sugli esterni, ho fatto lo stesso gioco che ho fatto sempre in queste mie 6-7 giornate, azzardando un po' meno, mettendo più, diciamo, un esterno di contenimento come Antonio Boucher e Paponi, che lo vedevo bene, un ragazzo che se facesse anche gol sarebbe incredibile per forza fisica. Ma noi pensavamo anche di colpirla maggiormente la Juventus, però probabilmente dopo la scoppola di 4 gol presi a Palermo c'è meno spensieratezza, c'è meno coraggio, e adesso vedrai che invece da domenica riniziamo ad essere bravi anche in quella situazione lì. Questo è Malesani, allenatore del Bologna, che tra l'altro ieri ha dichiarato: ma una volta fece il signore con la Juventus, episodio ormai lontanissimo, con di Cannavaro contro la Juventus, quando Cannavaro giocava nel Parma, Malesani allenava al Parma e disse cose che capitano nel calcio, e poi ha detto Malesani: quella volta ho fatto il signore, forse non dovevo. Oggi torna a fare il signore con Pavel Nedved, ma ci sta, insomma, perché questo episodio è davvero comico, se volete, al di là del poi il rigore è stato sbagliato e dunque può passare serenamente in cavalleria, però davvero comico, un tuffo secondo me che comunque meriterebbe anche sanzioni, no? Che dite? Perché simulazione bella e buona questa. Vedo già ascoltatori in linea, 800 24 0024 è il numero verde, sta parlando anche un sorridente Guidolin che oggi ha fatto in barba il suo vecchio Palermo con l'Udinese. Sentiamolo. Sì, se parliamo la migliore Udinese della stagione. No, secondo me siamo stati più bravi a Bologna e bravi così a Genova. Però sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, e questo per un allenatore è molto gratificante, credo lo sia anche per i ragazzi che si sono accorti che giocando ai ritmi che possono mantenere, questa è una squadra che ha una grande gamba, oltre ad avere dell'ottima qualità, può tenere i ritmi alti, e noi questo modo di giocare secondo me ci rende bravi e speriamo ancora e anche belli. Quattro sconfitte. Bravi e belli non lo so, però l'Udinese che un paio di settimane fa era laggiù in fondo alla classifica, che invece adesso si è portata in una più tranquilla zona di mezzo. A proposito di classifica, anche a Daniele da Pavia, Luca da Torino, Gianni da Parma, che sono già in linea, la leggo per tutti voi: Lazio 19, quindi imprendibile anche in caso di vittoria dell'Inter questa sera sulla Sampdoria, perché Inter e Milan, è imprendibile da parte del Milan in caso di vittoria domani nell'ultima coda a Napoli. Inter e Milan a 14 punti. Chievo 13, è quarto da solo in questo momento il Chievo. Juventus e Napoli al momento 12, al momento il Napoli naturalmente che gioca domani. Palermo, Genoa, Lecce 11 punti, Sampdoria e Udinese 10, a 9 punti troviamo Catania, Brescia e Roma. Roma che oggi, anche questo argomento di discussione secondo me, perché Roma che oggi ha giocato una partita incolore a Parma, tra l'altro Ranieri ha sostituito nell'intervallo Totti e Vucinic, tutti e due fuori, primo tempo non avevano combinato nulla. Non è che Borriello e Julio Baptista nella ripresa abbiano fatto molto di più, però Pradè, e poi ve lo faccio sentire, ha confermato comunque l'allenatore Ranieri non si tocca, almeno per il momento e almeno a parole. Secondo me una ragione c'è, perché, e ne parlavamo ieri, insomma, in questo momento con il futuro societario in ballo non avrebbe senso prendere un allenatore che sarebbe per forza di cose comunque un allenatore di transizione, quindi finché regge, finché la barca va, anche se pianissimo, lasciamola andare, così dice Pradè. Dunque eravamo arrivati a quota 9, Catania, Brescia, Roma, a 8 Fiorentina, Bologna, Cesena e Bari con 7 punti, ultima in classifica Cagliari e Parma. Daniele da Pavia, buonasera. Buonasera Genta, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Io chiamavo per la partita che è finita 10-0. Sì. Premetto, non l'ho vista, ho preso da lei il risultato. Io volevo dire la mia, nel senso, penso che nel calcio, comunque dalla terza categoria alla Serie A, ci siano delle regole non scritte, nel senso che ad un certo punto ci si deve anche fermare. Penso che sul 4-5-0, partita chiusa, penso si faccia girar palla e non si infierisca così sull'avversario, sì. Anche perché poi si rischia anche di farsi male, perché magari a un difensore avversario può partire, diciamo, la brocca, può partire l'embolo e ti stende, hai capito, ma è sbagliato, sì. Però può succedere. Ma qui Daniele, non so, sono questioni abbastanza filosofiche, nel senso che ad esempio nel rugby è segno di rispetto per gli avversari quello di non fermarsi, negli sport americani è segno di rispetto per gli avversari quello di non fermarsi e di continuare a giocare al massimo livello, ma per rispetto degli avversari. Poi ripeto, sono abbastanza questioni filosofiche. Perché da noi comunque si usa un po' questo, a parte forse la Roma qualche anno fa con Spalletti, mi ricordo che era successa una cosa simile. Col Catania. Infatti vieni fuori un discreto polverone, no? Infatti, t'aspetto fuori, t'aspetto al ritorno. Per l'avversario cercare di comunque, diciamo, non infierire tanto, perché è partita già troppo compromessa. Perché se sei 6-0, 5-6-0 non potrei mai. 10-0 è pesante da subire, sì, anche sì, moralmente. Sì, sono d'accordo. No, sono d'accordo sul fatto che è pesante subirlo moralmente. Poi sul fatto che ci si debba fermare, ripeto, questioni di filosofia, di stile, no? Perché ho fatto degli esempi per cui invece il fermarsi è segno di mancanza di rispetto per gli avversari, per chi sta di fronte. Poi è chiaro che sono questioni di confine, nel senso che partite di questo tipo nel calcio professionistico ad alto livello, insomma, sono estremamente rare. Non so se negli spogliatoi di Rotterdam ci siano state delle scene da gazzarra, da far west, alla mutua, tipo quelle di Catania, di Roma-Catania di qualche anno fa, e ci vediamo al ritorno e ve la faccio vedere, eccetera. Non so se sia successo questo, ma non credo, conoscendo gli olandesi. Non a caso ho parlato di Mutu, che ieri non ha trovato niente di meglio da fare che mettere le mani addosso, avrete sentito, l'altra notte a un cameriere, perché voleva uscire senza pagare il conto. Mutu ha questo vizio di fare il bullo e sarebbe ora anche di farglielo passare. Luca da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Essendo innamorato pazzo del calcio inglese, sì, e di tutto quello che c'è, insomma, dai campi alla gente, ai giocatori, sto vedendo Manchester e Arsenal. Come sta andando? Perché io ho mille televisioni ma non sono impegnati. Nasri, bel gol, è stata l'espulsione di un centrale del Manchester City come ultimo uomo e poi preso gol. Vedete, i miei ascoltatori, insomma, facciamo le cose al contrario, dovrebbero loro chiedere a me come sta andando Arsenal Manchester City, invece io ho i corrispondenti seminati in tutta Italia. Luca, sta giocando Balotelli, vero? No, Tevez punta unica da una parte, punta unica, e Çamak dall'altra, insomma, sì, 5 a centrocampo. Comunque sì, si stanno, diciamo, non si stanno risparmiando, però c'è massimo rispetto, massimo. Io penso che uno come Krasic, penso che farebbe fatica, se non addirittura, perché lo dipingono come nuovo Nedved, esattamente, è un bel cascatore, diciamo che. Pensi che c'è Roberto d'Arezzo che mi manda un messaggio, ma Pavel Nedved che c'entra? Beh, c'entra perché questo vizietto ce l'ha sempre avuto, anche Pavel Nedved è inutile. Inutile sostenere il contrario, no? È stato un grandissimo campione che non aveva esattamente nella correttezza la sua caratteristica migliore, questo lo sappiamo. Ma Luca, mi viene da dire, paese che vai, usanze che trovi. Sì, sì, però insomma io dico sempre che se dobbiamo essere educati, i principali attori a far migliorare questo nostro calcio e avere un po' più di senso civico, sarebbe ora di imparare che le frubate, secondo me, comunque come tutte le cose, tu prima o poi nella vita le paghi. Sì, intanto quindi, potrebbe pagare col giudice sportivo. Ma Adriano mi sembra che ha preso 2 giornate, 3 anni fa. Quindi voglio dire, se tanto mi dà tanto, ma non è tanto, perché poi mi piacerebbe vedere un bel Milan-Juve dove si scambierebbero bene. Io da ma vede, insomma... vede, c'è Milan-Juventus la settimana prossima e se il giudice sportivo decide di sanzionare questo episodio, Krasic non la gioca quella partita. No, no, ma è giusto così per la maggior parte. Ecco, e poi devo dire che Benitez è un norma special perché ci sta affascinando comunque sia, perché tra infortuni e indebolimento teorico della squadra i risultati fino adesso sono più che soddisfacenti, soprattutto, soprattutto in Champions dove facciamo 4 gol a partita, magari ci si distrae un po', però se fai 4 gol a partita l'Inter ha caratteristiche da Champions League, è l'unica delle squadre italiane ad avere reali caratteristiche da top club di Champions League, perché il Milan l'avete visto anche voi l'altra sera a Madrid. Luca, la ringrazio. Tra poco vi faccio sentire anche Del Neri che sta per parlare con Sky e sono curioso di sentire l'analisi della partita da parte dell'allenatore della Juventus. Gianni da Parma. Buonasera, io volevo dire due cose, poi nel frattempo sì, Malesani ha parlato di quel discorso su Krasic, io sono d'accordissimo, se l'associazione dei calciatori invece di pensare solo allo sciopero pensasse anche a mettersi tutti d'accordo che nel momento in cui uno... simula, Gianni, può succedere. Un attimo, stia lì, che mi interessa. Però sentiamo insieme Del Neri con Sky in diretta. Un passo in avanti, però non buttiamo via un pareggio a Bologna, insomma, come non si buttano via punti nessuno su un campo di Serie A. Ah, ribadiamo il fatto, sicuramente questa analisi. Sì, prego, sì. Giovanni, vai Giovanni. No, no, dicevo, sicuramente la tenuta difensiva c'è stata perché l'unica parata a Storari l'ha fatta al 90esimo. Forse, rispetto ad altre partite, è mancato un po' più di fluidità sugli esterni. Il riferimento è a Krasic, insomma. No, che... ma ci sta che un giocatore non possa avere sempre domeniche importanti. Però l'infortunio di Amauri ha condizionato poi i cambi anche durante la partita, quindi è chiaro che abbiamo avuto dei cambi quasi obbligati. Quindi direi però che la squadra ha mantenuto fede a quello che ha miglioramenti che ha avuto in questi ultimi periodi. A parte i gol non fatti, che era una prerogativa importante, però che non ci sono stati, però c'è la controparte che non subire gol anche in questo campionato qua è molto importante, assestare certi meccanismi di centrocampo in difesa mi danno soddisfazione. La sensazione è stata, magari mi sbaglio, che Krasic sia stato un po' condizionato dopo l'episodio del rigore. Abbiamo visto le immagini, insomma il fallo non c'era, è sembrato un po' scosso da quell'episodio, può essere anche questo? Il ragazzo viene trapassato domenicalmente, continuamente, sicuramente lui, adesso non ho visto il fallo incriminato, però se non è stato subito il fallo sicuramente è un ragazzo che non tira a fare apposta le cose, insomma. Ma teme una squalifica per la prova televisiva? Ma non credo, io penso che lui sia stato comunque sempre sottoposto a delle marcature importanti e in quel momento lì ha avuto questa netta sensazione di essere nuovo picchiato e scivolato, cioè, si vede che non c'è contatto. Ma non penso che lui possa avere fatto con volontà questo tipo di calcio di rigore. Ilaria. Beh, con volontà magari no, però è andato giù e sottoposto, caro Gigi Del Neri, sottoposto a trattamenti speciali, a sorveglianze speciali da parte dei difensori, esattamente come tutti gli altri buoni, insomma, del nostro campionato. Non penso che ne prenda più di Totti o più di Ibrahimovic o più di Del Piero o più di Floccheri, insomma, dite voi un nome a caso, lo dica lei Gianni da Parma. Infatti, allora, io dicevo prima, se tutti quanti si dovessero mettere lì a una tavola rotonda a ragionare su questa materia, cioè il gioco delle parti dice Malesani lo doveva dire, però Malesani a parti invertite avrebbe difeso come ha fatto adesso Del Neri e non ce ne esce mai. Allora io dico, mettetevi d'accordo e i giocatori stessi della stessa squadra o il giocatore che cade può essere istintivo, chi se ne frega, però dovrebbe fare marcia indietro, ma non lo fa nessuno, lo fa una volta De Canio di Canio in terra, però sa Gianni, però se oggi allora le dico, se oggi Krasic si alza, dice all'arbitro guarda che non m'ha toccato e il rigore non c'è, il rigore poi sbagliato dai a quinta, il rigore non c'è e magari non interviene il giudice sportivo e Krasic domenica prossima gioca Milan-Juventus, è un altro film, è un'altra storia. In questo caso non si mettono d'accordo i giocatori, ma interviene il giudice sportivo, può intervenire e secondo me interverrà il giudice sportivo e Krasic salterà la prossima partita. Quindi mi sembra una bella punizione. A quel punto lasciamo allora le cose al giudice sportivo e buonanotte, ma nessuno si deve scandalizzare. Io sono dell'idea che bisogna dire No, non è fallo, non è calcio d'angolo, ma nelle partite ci sono 300.000 episodi, lasciamo stare i rigori, anche il calcio d'angolo, il fallo laterale, la punizione con simulazione, cioè bisogna uscire da questo meccanismo, ma in Italia lei ci crede che ci usciremo da questo meccanismo? No. Io ho forti dubbi. Poi volevo fare un commento, tra virgolette, tecnico. Prego. Sulla Juventus, a livello di attaccanti abbiamo Pepe, Martinez, tutte queste mezze punte. Pepe attaccante l'ha detto lei, Sì, secondo no, me, ma lo so, secondo attaccanti, me non punte. È uno di quei giocatori che insomma sono buoni per tutte le stagioni e in fondo non spostano nulla, perché Pepe attaccante secondo me non lo è, non, inutile star lì. Però lei dice abbiamo tutte queste punte che però non fanno male, non fanno paura. Pagliarella, cioè sì, giocatori che a fine campionato non hanno mai superato la doppia cifra, sì, cioè non sono quasi, arrivano più o meno ai 10 gol quando la stagione è andata benissimo. Quindi anche a Mauri ormai sono anni che tra infortuni, ne ha sempre di forma, ne ha sempre una. Appunto, e allora la Juve a gennaio deve assolutamente, ma non dico per vincere lo scudetto, per essere competitiva, comprare una punta degna di tal nome. Noi abbiamo avuto per 10 anni un certo Trezeguet. Bravo. Dobbiamo restituire un altro Trezeguet, difficilissimo. E con un altro Trezeguet, e se Aquilani riuscisse a giocare con continuità e ad alto livello, allora la Juventus sarebbe altra cosa. Sono d'accordo con lei su questo punto. Ci fermiamo un attimo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto qui tra poco. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio, la palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo, l'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma, con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreform.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Buonasera. Venti provenienti da Enel Green Power, previsti in aumento dal 18 al 29 ottobre, porteranno alta pressione. Il tempo per i prossimi giorni: sole in prossimità delle banche e delle poste. Investi in un futuro più sereno. Acquista le azioni di Enel Green Power, la società di Enel leader nelle energie rinnovabili, in banca e in poste dal 18 al 29 ottobre. Prima dell'adesione, leggere il prospetto disponibile presso Enel Green Power, Borsa Italiana, i collocatori e enelgreenpower.com. Chiama l'813 23 23. Ottobre, novembre, sono 3 mesi e non possono durare per sempre. Scoprite subito le offerte finanziarie Audi Winter Plus, che vi permettono di acquistare l'usato Audi Prima Scelta Plus a condizioni esclusive. Vi aspettiamo nelle concessionarie aderenti all'iniziativa. Ogni giorno tante storie, gesti, emozioni, sentimenti che si intrecciano. Più di 500 anni, Banca Monte dei Paschi di Siena è con te, nella vita di tutti i giorni. Monte dei Paschi di Siena, una storia italiana dal 1472. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Insisteranno anche domani condizioni di maltempo in gran parte del paese, con piogge sparse a carattere anche di rovescio, meno probabili sul medio adriatico. I fenomeni saranno particolarmente forti al sud e al nord-est. Non mancheranno le nevicate sulle Alpi, anche sotto i 1000 metri nel settore orientale, e sull'Appennino settentrionale intorno a 1000-1200 metri. Le temperature subiranno un calo in gran parte del territorio, con valori tipici della fine di novembre al nord, Toscana e Sardegna. Anche i venti resteranno piuttosto forti in tutte le regioni. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it e per il meteo è tutto. La qualità è una pagina che Flu scrive ogni giorno. Come con Natalie, letto matrimoniale con rivestimento in tessuto sfoderabile, tuo a 1750 euro. Disponibile anche con testata reclinabile, doghe regolabili o movimento elettrico. Vai su flu.it. La tua azienda può avere grandi opportunità di crescita in Italia e all'estero, ma un imprenditore non può occuparsi di tutto. La migliore strategia per crescere? Dotarsi di un export specialist Comarc. Chiama Comarc 800-123-640. Centinaia di aziende di successo lo hanno già fatto. L'export specialist Comarc trova clienti, agenti, rivenditori e distributori in tutto il mondo e in pochi mesi svilupperà il tuo business al tuo fianco. Comarc 800-123-640. Comarc ti fa crescere. www.aziendedisuccesso.it. Energia in squilli. Solo uno squillo per parlare direttamente con il servizio clienti Repower. Di persona, altro che risponditore automatico. Vale qualcosa per te? Repower è assistenza diretta per il tuo lavoro. Elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve. Quindi, un massaggio, il parrucchiere, poi, beh, un abitino per l'occasione e... Che dici, mi faccio anche le unghie? Hai un appuntamento? Non io, la mia auto. Un appuntamento che le cambierà la vita, con il riparatore Opel. EcoCheckup per aumentare efficienza meccanica e diminuire consumi ed emissioni. E l'abitino per te, allora? L'EcoCheckup è gratuito. E già che ci sono, la faccio preparare anche per affrontare l'inverno in tutta sicurezza. Per maggiori informazioni, visita il sito opel.it. Opel, wir lieben Autos. Cosa avrebbe fatto Staglio senza olio? E cosa avrebbe fatto la bella addormentata senza Principe Azzurro? Scegli BNL Gruppo BNP Paribas come partner per il tuo business e scopri Crediazienda BNL, la linea di finanziamento con la garanzia del Fondo Centrale per le PMI per far crescere la tua azienda. Chiama l'800 902 901 per un appuntamento. Fogli informativi in filiale su bnl.it. State ascoltando un programma offerto da Eni, a tempo di sport. Perché deve intervenire il giudice sportivo? Se Crasi giocasse nel Cesena ne parlereste? Perché no? È un episodio che mi sembra talmente eclatante. Perché no? Perché non dovremmo parlarne? Per esempio, secondo me, è rigore inventato anche, ma l'ho detto prima, ho già detto tre volte. Quello di, che peraltro non ho ancora avuto modo di, questo sì, me l'hanno fatto vedere molte meno volte, quello di a favore del Lecce poi sbagliato da Di Michele. Intanto sta parlando Delio Rossi. In certi ruoli nella spina dorsale sicuramente dobbiamo migliorare, ma oggi non c'entra niente con le prestazioni. Abbiamo fatto una prestazione sotto livello, sia dal punto di vista tattico, dal punto di vista volitivo, dal punto di vista del modo di stare in campo. Poi ci sta di poter perdere a Udine, perché l'Udine oggi ha giocato meglio di noi. Così Delio Rossi. Palermo, che squadra molto divertente, però fragile difensivamente in certi frangenti, l'ha dimostrato anche in Europa League in settimana, dove ha preso tre fischi, come ben sapete, dal CSKA di Mosca. Matteo da Roma, buonasera. Complimenti per la trasmissione, io ascolto spesso, anche se da tifoso juventino soffro sempre un po' a sentirvi. Riguardo al discorso della simulazione di Crasi, cioè io sono perfettamente d'accordo, spero che subisca anche la sanzione che meritano tutti i tuffatori, però mi permetta, capisco l'interesse giornalistico, lo spunto giornalistico di associare Nedved a Krasic, ma messa così sembra che sia un problema solo di giocatori con la maglia striscia bianco-nera. No, ma perché? Il problema della simulazione secondo me è più ampio, un giocatore subisce un contatto, permettimi, quando subisce un contatto e poi simula gli effetti di questo contatto come se fosse stato quasi ucciso e arranto la terra, cioè è veramente un problema più complesso del tuffo di Krasic di oggi. Matteo, non c'è dubbio su questo, nessuno lo mette in discussione. Appunto, lo capisco, i due biondi, la maglia la stessa, ma insomma Nedved giocava nella Lazio per tanti anni prima di mettersi la maglia bianconera e faceva le stesse cose. Assolutamente. Quindi assolutamente. Concordo con quello che ha detto insomma l'ascoltatore di Parma, sostanzialmente. Sì. Il problema è veramente più complesso, attiene alla sportività. Sì. Sì, no, ma non c'è dubbio su questo, ce ne sono in ogni squadra di Cascadores. Sì, sì, sì. Non era solo Nedved, non è solo Krasic, oggi è stato Krasic. Detto questo, non, nessun dubbio sul fatto che sia un problema più generale. Possiamo anche tirare in mezzo, Matteo, stia lì e non vada via. Possiamo anche tirare in mezzo quell'odiosa abitudine italiana, ma l'ho detto anche qui molte volte, di continuare a fermare il gioco non appena un giocatore è a terra. In questo sì dovrebbero intervenire le società, dovrebbe intervenire non so se gentleman agreement può essere l'espressione corretta. Il gioco lo ferma l'arbitro, non lo fermano i giocatori tirando la palla contro i cartelloni pubblicitari. A me dà molto fastidio questo vezzo italiano, e in questo sono sempre stato d'accordo con quel che disse Capello, e cioè La palla non va tirata fuori, ci pensi l'arbitro a fermare il gioco, noi non lo faremo. All'epoca allenava la Juventus. Matteo Stiali Fernando, provincia di Reggio Emilia, buonasera. Sì, buonasera gente. Sembra che io e Matteo ci si sia quasi messi d'accordo, perché anch'io volevo far notare una cosa che mi sembra abbastanza rimarcabile. Cioè, secondo me si dovrebbe parlare più di calcio, di tecnica, di tattica. Lei che è su uno scranno molto importante, io temo, spero che mi smentisca, che lei voglia quasi indurre a volte gli spettatori radiofonici a discutere, secondo me, di aria fritta, perché io capisco che quello di Crasi ci possa essere stato un fallo di simulazione, sì. Però numero uno, perché pretendere che nel calcio ci siano virtù che sono nascoste in altri campi sociali del nostro agire, del nostro vivere, numero uno. Numero due, ma quante volte, soprattutto sulla vostra radio, io ho ascoltato rubriche del passato in cui ci sono episodi calcistici che si alimentano di, tra virgolette, carognate, per esempio, o di cose che hanno, ecco, portato proprio ulteriormente piacere agli ascoltatori nell'ammirare il fenomeno calcio. Cioè, vuole dire, cioè, la storia di Krasić di oggi, che verrà ovviamente riportata sui giornali per tutta la settimana, fino a sperare da parte di molti che si salti Milan-Juventus, cioè, dovrebbe essere un fatto secondario. E poi io non giurerei sul fatto che all'estero si sia tutti questi stinchi di santo che spesso proprio dalla vostra radio, da lei e dal signor Garanzini, vengono Matteo, ma Ferdinando, ma di che cosa dobbiamo parlare allora? Allora, gli spunti di oggi quali sono? Questo mi sembra piuttosto eclatante, tanto che lei dice ne parleremo per tutta la settimana. Ecco, per tutta la settimana è eccessivo, oggi parlarne mi sembra anche... Ma lei lo sa che da lunedì a sabato l'argomento Krasić verrà sviscerato come questo... più delle idee tattiche di un allenatore che magari dimostra di essere magari anche perché è più interessante. Lei cosa dice? Io mi sono, diciamo, a star lì a disquisire di alte questioni tattiche, a me francamente annoia un po'. Matteo, lei la pensa come Fernando, immagino. Non è che siamo un'unica grande famiglia, no, volevo dire che innanzitutto da tifoso juventino sono contento che il rigore sia stato sbagliato, perché a me piace vincere, insomma, sul campo, ho fatto sport in vita mia, lo faccio ancora, quindi questo è... sottilmente contento, perché chiaramente di Aquinter l'ho fatto apposta. Risulto pure io, perché i tifosi sono beceri, non sono quelli della Juve, insomma, poi alla fine diciamo... Ma non si tratta di essere beceri, Matteo, simpatico, no, insomma. Come solo in Italia gufiamo, dicono le altre squadre ci sono tutte cose che ci può stare, perché si tira la croce addosso? Ci possono stare queste cose, perché? Perché? Questo è bello, cioè io quando vado a vedere la partita, la vado a vedere al pub, pure avendo Sky, spesso e volentieri, perché mi diverto a litigare con i tifosi delle altre squadre. Ma esattamente. E a sfotterci su, scusi il termine. Proprio per quello che io dico a Ferdinando, divertenti questi episodi, perché sennò se stiamo qui a parlare di 4-4-2, 5-3-2, io mi annoio, non so voi, credo anche voi alla fine, a lungo andare. Così invece è un argomento di cui discutere serenamente, magari anche pigliandoci un po' in giro. Matteo e Ferdinando, grazie davvero. Ci fermiamo un attimo, traffico, poi torniamo con Emilio Buttero da Bologna, con il corrispondente da Roma, con molti altri ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto qui. Strade in diretta. Trafficata all'autosole, in queste ore ci sono code di 3 km verso Firenze tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una vettura all'interno della galleria Casarsa. Ancora sulla 1 altre code per traffico intenso in direzione Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano e in direzione di Bologna tra Incisa e Firenze Scandicci. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per un cantiere, rallentamenti e code in direzione Pescara tra Pedaso e Grottammare e verso Bologna tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Per lavori si rallenta sulla statale Aurelia tra Cecina Nord e il bivio per la 12 Genova-Livorno in direzione di Livorno. Trafficata in queste ore anche la tangenziale di Mestre, code e rallentamenti tra l'innesto con la 27 Mestre-Belluno e lo svincolo di Marcon in direzione di Trieste. Attenzione infine sulla 12 Genova-Livorno, ci sono tratti allagati per la pioggia tra Genova-Nervi e Genova-Est. È tutto, prudenza e buon viaggio. Promo 24. Nasce un progetto per dare al paese un futuro digitale. Un progetto firmato Telecom Italia. Nasce la Nuvola Italiana, il cloud computing di Telecom Italia, dedicato alle imprese pubbliche e private. Le aziende non dovranno più dotarsi di infrastrutture, piattaforme e applicazioni IT interne, perché è tutto nella nuvola. Così tutto è più efficiente, semplice e flessibile, perché si usa e si paga solo quello che serve e non tutto il server. Con la Nuvola di Telecom Italia, il paese diventa innovativo, efficiente, competitivo e ancora più ricco di opportunità per ognuno di noi. Oggi tutto questo è nell'aria con la Nuvola Italiana, il cloud computing di Telecom Italia. A tempo di sport. Allora, Matteo Manassero ha vinto in Spagna il torneo di golf Castello Masters. È diventato a 17 anni il più giovane vincitore di una prova del circuito europeo. Ve la butto lì in tempo reale. Emilio Buttaro da Bologna, buonasera. Dalla tribuna, quel tuffo di Krasic com'è sembrato? Sì, grazie, eccomi Carlo, sono qui dalla sala stampa dello stadio dell'Ara insieme al collega Roberto Perrone. Beh, c'è da dire che noi subito ci siamo resi conto di quello che era successo qui a Bologna, poi tra l'altro abbiamo anche il supporto dei monitor e quindi abbiamo potuto verificare appunto che il contatto di fatto non c'è stato. Io intanto chiedo al collega Roberto Perrone se la parata di Viviano sul rigore di Iaquinta ha evitato comunque delle polemiche che in ogni caso sicuramente già da adesso non mancano. Ma sì, sicuramente effetti collaterali ce ne sarebbero stati di più, parando il rigore, diciamo, gli animi che già in questo paese sono troppo incattiviti, così si incattiviranno un po' meno, insomma, quindi ha fatto direi una buona cosa, insomma, parando il rigore, oltre che per il Bologna, anche per tutti noi. Ecco Roberto, abbiamo sentito anche prima in TV, adesso aspettiamo anche qui l'arrivo di Del Neri. Del Neri ha detto, ma lo ha detto anche Malesani, Krasic non è un bravo ragazzo, diciamo, non è il tipo che fa di solito di queste cose. Tu lo conosci di più perché segui spesso la Juventus, che idea ti sei fatto un po' di tutto il contesto? Io innanzitutto cercherei di non farne un punto, io non ne farò un caso nazionale, è un fatto che è successo, purtroppo nel calcio succede distinto quando entri in area, ti si viene avanti il giocatore, a volte non pensi neanche che non ti possa toccare, pensi che ti tocchi, cioè succedono tante cose, insomma praticamente ha visto avvicinarsi questo giocatore e ha avuto istintivamente l'istinto di buttarsi, insomma non mi sembra che insomma bisogna fare il processo a Krasic, sicuramente non è un gesto, non è una cosa sportiva, insomma nella vita può succedere, ecco. Ecco, grazie Roberto Perrone. E Carlo, non so se hai qualche domanda dallo studio. No, benissimo così, grazie a Roberto Perrone, inviato del Corriere della Sera, poi vediamo se passa qualche altro ospite dal tuo microfono. Io vorrei parlare con Maurizio da Catania, buonasera. Salve, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io avevo chiamato inizialmente per il primo intervento che c'è stato, la vostra al telefono, di quel ragazzo che per l'appunto parlò della partita, sì, in Olanda, credo che sia, sì, stata il 10-0 di PSV Feyenoord. 10-0, sì, 10-0. E ha fatto il classico intervento da italiano, noi non ci smentiamo mai, col quale intervento lui chiaramente, e probabilmente la sua idea, l'idea di questo ragazzo è un po' l'idea di tutti, compreso i calciatori italiani, quella di non dover continuare a infierire contro la, sì, squadra che sta perdendo, sì, perché il calcio lo impone, perché è un atteggiamento antisportivo e scorretto, classico dell'italiano che poi è onesto in queste cose. Maurizio, visto che italiani lo siamo anche noi, l'autoflagellazione, no, nel senso che noi sempre facciamo questo genere di ammissioni, che ormai bisogna essere onesti, bisogna non inferire nei confronti del pugile che già è alle corde, eccetera. Però puntualmente, non lo so, fischiamo il calciatore quando non butta la palla fuori dal campo, perché c'è uno che sta magari fingendo l'infortunio, oppure me la prendo anche oltre che con Krasic, per forza di cose me la devo prendere col signor Iaquinta, che è onesto, giocatore della nazionale, portabandiera, eccetera. Lui, avendo percepito, come tutti in campo hanno percepito, quello che era successo, avrebbe dovuto tirare il rigore fuori totalmente e rimettere la palla in aria e farla rimettere al portiere, perché non l'ha fatto? Allora mi chiedo come mai voi giornalisti, chiaramente oggi non ci sono altri argomenti di cui parlare, probabilmente parlate solo di Krasić e non stiamo parlando anche del signor Iaquinta, che avrebbe potuto, ce n'è mille di argomenti di cui parlare. Ma Iaquinta ha tirato un rigore male, se l'è fatto parare, buttarlo fuori non lo so, sono scelte. Sono e scelte l'avrebbe individuali. Dovuto fare, diciamo tu che riconosci questo, no, sei onesto, no, lo fai e chiudi la partita lì. Sì, può essere un atteggiamento. Poi lì, ripeto, sono scelte individuali. Non mi sento io onestamente, in tutta onestà, di condannare Iaquinta che tira il rigore per segnarlo. Credo che, ripeto, Krasić, anche perché insomma il giocatore può non aver avuto la sensazione corretta, dunque il suo mestiere è di mettere la palla sul dischetto e tirare per far gol. È chiaro che l'unico che sapeva, che gli unici due che sapevano in campo con certezza come andate le cose, erano Portanova e Krasić. Portanova ha protestato, Krasić non ha fatto un plissé, è tornato verso la metà del campo e non ha detto nulla, quindi loro due avevano voce in capitolo. Per il resto, Iaquinta non mi sento di crocifiggerlo, e non mi sento nemmeno di continuare l'autoflagellazione dello spirito italiano. Ognuno la vede come ne ha voglia, insomma, vede come ne ha voglia queste vicende. Poi sono d'accordo con lei sul fatto che mi dà fastidio vedere la palla continuamente messa in fallo laterale, come ho detto prima, ogni volta che c'è un giocatore per terra. E quanto all'infierire, non infierire, anche qui questione di scelte, di gusti. Ho semplicemente citato episodi e situazioni in cui il rispetto dell'avversario esige un continuare a giocare al massimo possibile e non fermarsi dunque di fronte alle difficoltà altrui. Cosa che si fa ad esempio nel rugby, cosa che si fa ad esempio negli sport americani, per questioni proprio di mentalità. Marco Montanari dall'Olimpico, è quell'aquila che non la smette di volare. Eccoci, sì, buonasera dallo Stadio Olimpico di Roma. È iniziato con questa curiosità la partita di oggi, che vede la Lazio consolidare il primato in classifica in attesa poi del risultato delle due milanesi, ovvero Olimpia, che dopo due giri di campo ha così spiccato il volo verso la parte alta dell'Olimpico, ovvero sopra la copertura, dove si è gustata il successo della Lazio di oggi. Poi possiamo comunque tranquillizzare i tifosi, è stata recuperata nel corso della fine del primo tempo dal suo amministratore, che è andato così a scalare veramente, nel vero senso della parola, le mura dello stadio per andare a tirare. È dovuto andarla a riprendere? Esattamente, sì, perché si è così seduta nella parte alta, quindi sopra la copertura, forse. Senti, Marco, distratta dagli altri volati. Una Lazio qui, al di là dell'aquila che si arrampica sul tetto, che vola fin sul tetto, una Lazio cui va tutto dritto, perché anche i due gol di oggi, sì, insomma, pesanti, importanti, però anche un po' fortunosi, se vogliamo. Ma soprattutto quello di Mauri, con il pallone che gli carambola sulla coscia e poi finisce in porta senza ombra di dubbio. Però c'è da dire che la partita è stata godevole da tanti punti di vista, nel senso che il Cagliari, a mio avviso, non merita la posizione che ha in classifica, perché ha fatto comunque una buona gara, ha segnato con Matri probabilmente troppo tardi, ma ha sfiorato il pareggio in diverse occasioni, e il Lazio, che comunque si era portata sul 2-0, ha fatto una gara ordinata. Probabilmente all'inizio questa posizione di classifica ha fatto venire un po' di vertigini, ma poi, ecco, trascorsi i primi minuti ha fatto sicuramente una buona gara, e il risultato poi ne è la testimonianza. Record, tra l'altro, storico della Lazio, che mai aveva fatto 19 punti, così tanti punti dopo 8 giornate di campionato. Io ringrazio Marco Montanari, semmai con i nostri corrispondenti ci sentiamo più tardi in caso di ospiti. Ascoltatori all'800240024, dopo il giornale radio torneremo insieme. E torniamo sempre, Giorgio Drucca in redazione, Pietro La Corte ora in regia, le vostre telefonate al centralino, c'è Jessica, 800240024 è il numero verde per parlare di questa giornata nella quale la Lazio prosegue il suo volo, esattamente come l'Aquila Olimpia, che ci raccontava prima Marco Montanari, si è arrampicata fino sul tetto dell'Olimpico. Spigolature a margine di questa giornata in cui comunque la Lazio vince e conserva il primato a prescindere da ciò che faranno Milan e Inter. L'Inter stasera e il Milan domani. Lo fa con una certa fatica, dicevamo prima, perché dopo i gol di Floccari e di Mauri, anche in questo caso gol figli del momento, non dico fortunati o fortunosi, però figli di un momento in cui la Lazio gira tutto per il verso giusto. Nel finale però la Lazio ha sofferto dopo il gol di Matri. La Juventus non va oltre lo 0-0 a Bologna con questo episodio del carpiato di Krasić, di cui abbiamo parlato a lungo. Marco Ansaldo, inviato della Stampa proprio a Bologna. Ciao Marco. Ciao. parlato a lungo, ma continueremo a parlarne, ho l'impressione, anche perché dietro l'angolo c'è Milan-Juventus, su cui quel carpiato potrebbe avere dei riflessi. Penso di sì, ci sono dei precedenti, penso a quello di Zalaieta in un Napoli-Juventus che beccò due giornate, credo che magari forse ne avete già anche parlato. Non so, adesso voglio dire, non è che dobbiamo poi demonizzare tanto questa cosa, nel senso che va giustamente stigmatizzata, questo è uno che è appena arrivato in Italia, quindi è bene che capisca che certe cose non vanno fatte, sì. Però voglio dire, non è per scusarlo, ma abbiamo spesso celebrato fior di goleador, alcuni anche ai massimi vertici delle classifiche dei marcatori nelle coppe europee, che hanno costruito una carriera su queste cose, sì, quindi sì. Insomma, tutto sommato non è il primo, non sarà l'ultimo. Detto questo, parlando di Pippo Inzaghi tra le righe. Ecco, detto questo, è giusto che sia punito. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è un po' una discrasia normativa, cioè se l'arbitro, il pessimo arbitro De Marco, sì, oggi avesse visto Krasić che si tuffava, gli avrebbe dato un cartellino giallo a sì, Morizzone. Sì. Non avendolo visto, quindi avendo sbagliato l'arbitro, alla fine Krasić rischia due giornate di squalifica. Sì. Cioè, sì. Vedo un qualcosa che mi sfugge, ecco, tra le due, cioè la stessa fattispecie che viene punita in due modi estremamente diversi. Hai ragione. Ecco, è un po' questo che mi lascia perplesso, però capisco anche che in qualche modo chi fa il furbo poi debba pagare. No, ma perché vede, adesso stiamo affogando nella demagogia, no? Anche con gli ascoltatori. Sì, no, ma è questo il fatto. Che poi e Iaquinta doveva sbagliare il rigore? Secondo me no, perché Iaquinta, il mestiere di Iaquinta è quello di mettere il pallone sul dischetto e cercare di far gol, poi ha tirato un rigore. Io, vedi, quello che non sopporto più di questo paese è appunto la demagogia, no? Questo paese sì, dove si applaudono i morti, dove si fanno tutte queste cose qua. Io non lo sopporto più. Allora io dico, abbiamo conosciuto, facciamo un elenco di grandissimi giocatori, tra l'altro, che erano comunque dei cascatori, io me ne ricordo uno anche tu quando eravamo ragazzi, Chiarugi è stato sicuramente un grande attaccante che però volava in area al primo soffio, eppure non mi sembra che stiano a fare tutte queste cose, cioè sembra che adesso, capito, questo è arrivato, sarà forse perché abbiamo ancora la sindrome serba, però non so, ma mi sembra che adesso questo qui veramente vada fustigato tutte queste cose. Ha fatto una furbata. In qualche modo forse esiste una giustizia divina per cui la Juve non ne ha approfittato, si faccia qualcosa, però adesso insomma, avremo la sindrome serba, ma Ivan il Terribile a Napoli non c'era dove quando menavano le famiglie inglesi, ma lasciamo stare, ecco, no? Sì, tra l'altro, dici? Poi, ecco. E chissà se gliel'avevano detto, no, che arrivavano gli inglesi, oppure non lo sapeva nessuno, misterioso. Al di là di... Senti Marco, tu oggi, parlando invece della partita della Juventus, oggi tu sulla stampa scrivi prova di forza al tuo articolo, e Del Neri che dice basta con la doppia identità. Oggi c'era Mr. Hyde o il dottor Jekyll a Bologna, chi c'era? Oggi c'era dunque il cattivo e il dottor Jekyll, no, il Mr. Hyde. Sì, quindi Mr. Hyde, c'era Mr. Hyde. Quindi c'era Mr. Hyde, però devo dire Mr. Hyde era un cattivo. E invece la Juve oggi mi è sembrata molto molto buona, buonista, nel senso che è una squadra che ha conservato il possesso della palla, direi, adesso non so come diranno le statistiche, ma così a occhio, per l'80% della partita. Il Bologna ha giocato proprio a barricate, buttando solo via la palla, devo dire che è una delle squadre che mi ha impressionato meno in questo campionato, proprio per questo, perché ha rinunciato a giocare, eppure palle gol vere, la Juventus ne ha avuta una nel primo tempo per un grave errore di Britos, difensore del Bologna, e poi non ha costruito più delle azioni nitide da gol come in passato. Perché una delle ragioni è che oggi Krasić, tuffo o non tuffo, non riusciva a scappare alla marcatura, c'era un raddoppio sempre nei suoi confronti, quindi non riusciva a produrre quegli spunti incisivi e profondi che sono stati la caratteristica nelle scorse partite degli attacchi juventini. Sì. E finito quello si è un po' spenta la luce globalmente davanti, cioè la Juventus quindi ha avuto un dominio totale della partita, e non ha saputo poi convertirlo in pericolosità. Sì, il problema principale in questo momento sembra Grigera, che non è esattamente un drago né un fuoriclasse, però sembra quel buco aperto dall'infortunio di Grigera. Si dice adesso corriamo a comprare qualcuno, non mi sembra un'esigenza così stringente, o no? No, non credo, cioè può diventarlo nel momento in cui dovesse essere, non so, anche squalificato Motta, che tra l'altro oggi è stato ammonito. e che ha giocato anche una partita direi sicuramente decorosa. No, io credo che la Juventus abbia dei problemi di davanti, perché Mauri non la butta più dentro nemmeno con le mani. Oggi poi si è anche infortunato in una partita in cui stava dando dei segni di vita interessanti. Iaquinta mi sembra sia un attaccante che si è involuto enormemente negli ultimi anni, anche lui comunque ai suoi annetti. Quagliarella è uno che segna i gol straordinari, ma poi dopo non concretizza magari quelli più semplici. Oggi tra l'altro non ha avuto neanche occasioni. Sì. E Del Piero è il Del Piero che si può inventare la cosa in certe partite, ma non è che ci si può affidare Del Piero come gli Oleador. Manca un uomo d'area di garanzia nei gol, e tra l'altro la cosa curiosa è che viene a mancare proprio nell'anno in cui più arrivano cross in area e cross buoni. Da sfruttare, cioè non mi ricordo nelle ultime stagioni una simile produzione, lascia perdere oggi, ma in generale una simile produzione di cross, cioè Krasić c'è uno che fa 4-5 cross tesi, forti, belli a partita. E immagino cosa sarebbe stata questa Juventus con il Trezeguet di certo, perché il nome che rimbalza 8 anni fa. Ma il nome che rimbalza adesso, figurati chi è, Trezeguet, che abbiamo già citato in contumacia diverse volte solo in questo pomeriggio. Chiedo ancora questo. Togliamoci dalla testa quella cosa lì, cioè se tu mi dici il Trezeguet del 2003-2004, eccetera, per carità, cioè oggi no, evidente. Un Trezeguet di qualche anno fa, allora la Juventus potrebbe far paura a molti. Un'ultima cosa su una partita che sulla partita dell'ora di pranzo, la Roma che fa 0-0 a Parma, Ranieri che di nuovo tira fuori nell'intervallo Totti e Vucinic, Pradè che dice Ranieri non si tocca, che sensazioni a distanza hai portato a questa partita? Ma guarda, io l'ho vista tra l'altro poco, anche perché stavo completando il viaggio qui, però la Roma sta passando, qui siamo da una sindrome all'altra, dopo la sindrome di Serba c'è la sindrome di Ranieri, e mi sembra di rivivere l'inizio della seconda stagione di Ranieri e la Juventus, anche allora con grande difficoltà, dopo le belle speranze suscitate nel primo anno, all'inizio del secondo andò malissimo. E poi si riprese, ma insomma credo che ci sia lì un bel casino, insomma, per dirla con molta chiarezza, sì. E che non si riesca a trovare una quadratura. La squadra più o meno è quella dell'anno scorso. Io credo che come potenziale resti forse la seconda squadra del campionato come insieme di giocatori, perché teoricamente in tutti i reparti c'è della qualità, però non riescono a uscire di lì, e credo oltretutto che l'ambiente romano non aiuti a uscire da una crisi, su quello non c'è minimamente tranquillità. Vedi che uno dice una cosa, l'altra poi scopre che Totti una volta è con Ranieri, la volta dopo sembra che non lo sia più. Insomma, mi sembra che si stiano complicando la vita anche molto da soli. Sì, un discreto casino, non c'è dubbio. Sembra quasi che non abbiano più tanta voglia di giocare per Ranieri, non solo Totti, ma anche i suoi fratelli. Marco, ti ringrazio, buon lavoro. Anche a te, ciao. Salutaci Krasić. Grazie a Marco Alsaldo, naturalmente scherzo. 800 24 00 24, numero verde, siamo in ritardo sul traffico. 18:17, torniamo subito dopo. Strade in diretta. Buonasera, in aumento il traffico sulle strade, in particolare sull'Autosole. Attorno a Roma si formano code in prossimità delle due diramazioni Roma Sud e Roma Nord per il traffico diretto alla capitale. Più a nord molti veicoli in viaggio tra Emilia e Toscana, sugli Appennini in direzione di Firenze. Le code sono anche per un incidente risolto tra Ronco Bilaccio e Barberino. Chi viaggia sulla A14 Adriatica deve sempre prestare attenzione ai cantieri tra Pedaso e Grottammare, sia verso Pescara che verso Ancona. Infine, maltempo sempre al nord e sulla Toscana. In Liguria ci sono tratti allagati nel nodo di Genova, in particolare sulla A12 Genova-Livorno. Ed è tutto, a più tardi. Promo 24. Chiunque desideri investire in un futuro più sereno può acquistare le azioni di Enel Green Power, la società di Enel leader nelle energie rinnovabili, in vendita dal 18 al 29 ottobre. Con un prezzo compreso fra 1,80 euro e 2,10 euro per azione, si possono avere lotti minimi di 2.000 azioni con la possibilità di sottoscrivere un lotto maggiorato di 20.000 azioni. Gli aderenti che conservano le azioni per 12 mesi avranno un'azione gratis ogni 20 e il prezzo definitivo sarà stabilito il 29 ottobre al termine del periodo d'offerta. Per i dettagli dell'offerta è nel greenpower.com oppure 800 13 23 23. Prima dell'adesione leggere il prospetto disponibile presso Enel Green Power, Borsa Italiana e collocatori. A tempo di sport. Torniamo naturalmente con gli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde. C'è anche Marotta che sta parlando già da un bel po' con Sky, proviamo a sentire. Determinante per un certo tipo di organizzazione tattica. Krasic lo è stato nelle domeniche precedenti, sicuramente ci sono dei giocatori che fanno un po', non dico la differenza, ma che comunque hanno un contributo tecnico-tattico diverso dagli altri. Il principio e la filosofia del Neri è quello di creare una base, un'organizzazione di gioco che non preveda esclusivamente il solista, ma che preveda un attimino un po' sì, interazione chiaro. Tra tutti i giocatori, ma è evidente che poi comunque tutte le squadre hanno dei valori che sono l'espressione di quello che poi si vede. È chiarissimo, infatti. Dunque, questo è Marotta, sinceramente da Juventus abbiamo già detto molte cose. Io vi dico invece questa, prima di Andrea da Biella e Francesco da Milano, vi dico questa su Mutu perché è carina. Allora, è stata la reazione a una serie di ripetute e pesanti offese razziste alla minaccia di fare la fine dell'infermiera romena uccisa con un pugno nella metropolitana a Roma. È quanto ha detto Adrian Mutu ai propri avvocati Nino Davirro e Michele Ducci, lo hanno riferito gli stessi legali, sto leggendo un'agenzia. Due notti fa il calciatore viola è stato denunciato perché durante un litigio ha colpito con un pugno in faccia il cameriere di un locale fiorentino causandogli la frattura del setto nasale. Dunque, è stata reazione a una serie di ripetute pesanti offese razziste alla minaccia di fare la fine dell'infermiera romena uccisa con un pugno nella metropolitana di Roma, e Mutu ha sempre la scusa pronta. Mi viene in mente una cosa che disse tanti anni fa il suo allenatore attuale Sinisa Mihajlovic dopo aver beccato 3 giornate di squalifica dall'UEFA dopo un Lazio-Arsenal perché insultò Vieira, e poi disse pubblicamente, non attraverso gli avvocati, disse lui mi ha detto zingaro di merda e allora io gli ho detto negro di merda, io sono fiero di essere zingaro e lui è nero, non è colpa mia, disse una cosa del genere. Poi se trovo l'audio lo faccio anche risentire, però fatto sta che Mutu ha questo vizio di muovere le mani. Se muoviamo le mani noi come Mutu ci processano per direttissimo. Lui finora l'ha fatta franca, adesso c'è questa cosa, offese razziste e minacce da parte di questo cameriere che si è beccato un pugno sul naso con conseguente frattura e sacrosanta, secondo me, al di là di tutto, denuncia nei confronti di Mutu. Vedremo le conseguenze. Andrea da Biella, buonasera. Buonasera. Il pugno in faccia però non l'ha preso il rumeno in questo caso, insomma, mi sembra che l'abbia preso l'altro. Sì, l'ha preso l'altro. Vabbè, al di là il di naso questo... rotto non ce l'ha neanche Mutu, ma quell'altro. No, infatti, comunque, vabbè, ok. Al di là di questo, esclusi presenti nelle trasmissioni radiotelevisive, trovo che si parla tanto della Juve, della Roma, del Milan, dell'Inter, un po' poco della Lazio, che comunque se andiamo a guardare gli albi d'oro degli ultimi 2 anni, quello che non ha vinto l'Inter ha vinto la Lazio, ovvero una Supercoppa italiana e una Coppa Italia. Sì, sì. Si è potenziata come squadra e arrivando a fare spenti io insomma non la darei vincente solo all'intertempo di ogni Santi, insomma, lei dice, per recuperare quello che lei ha detto all'inizio. Lei dice? Ma può reggere, poi l'opinione pubblica che non ne parla troppo, secondo me, insomma, mi ricorda un po' la storia del Verona di un po' di anni fa. Andrea, ho paura per i tifosi della Lazio che siano un po' altri tempi, no? Perché ogni tanto ritorna, no, questo scudetto del Verona, poi ritorna lo scudetto del Cagliari, lo scudetto di una certa Fiorentina, insomma, ritornano queste suggestioni, però temo che siano tempi non più propizi a suggestioni di questo tipo. Poi con tutto il bene che voglio alla Lazio, insomma, io spero che possa andare avanti anche all'intertempo, all'intermedio di Natale, al campionato d'inverno. Sinceramente io in questo momento non credo a una Lazio con la possibilità di vincere il titolo. Ripeto, gioco un gran calcio, il vento è quello giusto, il momento è quello giusto per continuare così, poi vediamo. Non credo però che la Lazio abbia la qualità necessaria, è una squadra molto lunga, molto profonda, anche troppo lunga e troppo profonda se vogliamo, però non credo che abbia la qualità necessaria per reggere così fino in fondo. All'intertempo di Natale magari sì, all'intertempo di Natale magari sì, poi vediamo. Non so se Francesco da Milano ha qualcosa da aggiungere sull'argomento. No, su quella della Lazio hai posto l'ardua sentenza. Ma lei cosa dice? Ma io credo che possa tenere a lungo. Ci sono squadre più organizzate, piene di campioni che hanno più alternative in panchina. Non credo proprio che la Lazio possa reggere con Brocchi tutto il campionato. Mi sembra un po'... Speriamo, perché mi farebbe piacere, pur essendo io milanista, sì. Mi farebbe piacere, però... Però qualitativamente lei è d'accordo con me, grosso modo, che non è difficile nel 2010 arrivare fino in fondo con un organico di questo tipo, che è di buon livello ma non top class. È vero che la Lazio mi sembra che non abbia altri impegni, è anche vero che finora ha incrociato una sola squadra forte, se non ricordo male, il Milan, e ha pareggiato per fortuna, insomma, e anche i risultati che sta ottenendo non sono, come dire, la conseguenza di un gioco fluido, ma quasi... Anche il gol di oggi, due doppie respinte, sì. Che è andata. Ma lei sa meglio di me che nel calcio, quando il vento la ti spinge, aiuta gli audaci. Bravissimo, bravissimo. Ok, no, io avevo chiamato, se permette, perché volevo capire qualcosa su quello che aveva detto il giornalista Marco Ansaldo. Marco Ansaldo, a proposito dell'ammonizione prevista per chi viene scoperto dall'arbitro invece di due giornate di squalifica di cui si parlava. Mi sembra più che giusto per questo semplice motivo, perché se io simulo il fallo, l'arbitro si accorge, mi dà il fallo contro e la partita continua con un fallo a favore della squadra che ha subito il danno. Sì. Se io invece simulo il fallo come ha fatto Krasic, prendo il rigore a favore, il rigore va in porta, la partita si capovolge, prende il 3-0, cioè vince 2, 3-0, sì. 1-0. Insomma, cambia il risultato se il rigore viene segnato. Sì. Perché l'arbitro non si è accorto. Quindi è giusto che intervenga una terza persona. E cioè lei dice, una volta diverso, che hai messo in tasca il risultato, la punizione che ti do è più severa, è questo che dice, certo, lei. Certo, perché nel momento in cui c'è la simulazione l'arbitro si accorge, non c'è nessun vantaggio per la squadra il giocatore di cui il giocatore ha simulato. Nel momento in cui invece il giocatore ha simulato e la simulazione porta a profitto un calcio di rigore... Però sono interpretazioni che diamo noi, è un'interpretazione del regolamento, però la discrasia regolamentare di cui parlava Marco Ansaldo forse ci sta, no? Perché questa, Francesco, non è scritto, giusto? Sì, beh, questo non so, perché non è che studio calcio tutto il giorno, insomma. No, certo, però, nemmeno io, per fortuna. Però lei dice, il vantaggio acquisito a quel punto, a torta finita, è stato quello, dunque la punizione è più severa. Però, certo, ripeto, perché il rigore c'è stato, poi l'ha sbagliato, vabbè, pazienza, colpa, cosa dire, peggio per loro. Però il tentativo è andato a buon fine, cioè la simulazione è andata a buon fine, ha ottenuto quello che voleva ottenere. Sì. Nel caso invece in cui l'arbitro si accorge, lui non trae nessun vantaggio, prende l'ammunizione, continua a giocare, la squadra avversaria batte il calcio di punizione a favore, chiaro, la partita chiaro, continua come deve continuare. È chiaro, è chiaro, il risultato acquisito, il risultato messo in banca è quello, quindi la punizione che ti do è diversa. Però, ripeto, è una libera interpretazione, è una libera interpretazione regolamentare che possiamo dare, una lettura del regolamento in questa chiave. Beppe da Bergamo, buonasera. Buonasera. Sa che l'Arsenal sta vincendo 1-0 sul campo del Manchester City? È libero di dire, non me ne frega niente. No, mi fa piacere, perché a me piace l'Arsenal come squadra. Sì. Questo mi fa piacere. Non peraltro sono contro Mancini, anzi lo ammiro come allenatore come lo ammiravo come giocatore. Mi però correggo, 2-0, sarà ancora più contento perché mentre lei stava parlando l'Arsenal ha raddoppiato. Ecco, io le volevo telefonare, se è possibile, volevo chiedere una cosa. Non sarebbe bello sentire voi giornalisti parlare un po' più di calcio, proprio calcio giocato, sportivo, che parlare di certe cose sulle squadre, come quello che mi sta un attimino facendo rimanere perplesso? Sempre questa Juventus, sembra che stia rinascendo, quando io non ci credo per niente in una società come la Juventus. Sì. Ecco, questo è un mio parere, però da qualche anni che seguo il calcio e sento che di sport vero e proprio si parla sempre meno. Sì, anche questo è sport, no Beppe? Anche questo è sport, poi ne guardiamo talmente tanto, ne vediamo talmente tanto, ne commentiamo talmente tanto che non sappiamo quasi più che cosa dire. Perché ripeto, possiamo andare a disquisire di tattiche, di tecniche, di tutte queste cose, però alla fine siamo quasi un po' sazi, un po' troppo stufi. Lei no? Devo dire un'ultima cosa. Io ma anche due, anche due. Mi sono trovato a parlare con dei ragazzi giovani che si approcciano al calcio, sì, e stanno iniziando... E ho sentito una cosa che per me è rimasta molto curiosa. Mi fa, sì, ma noi sentiamo parlare di calcio, parlare del giocatore che va con la velina, ma di vero calcio, di quello che io sentivo ai miei tempi, tipo lo stopper, tipo l'ala, la mezzala e la punta. Ragazzini che parlano così mi lasciano un attimino, come dire, allora non sono proprio l'unico che di calcio sento parlare un po' pochino. Sì. No, anche i ragazzini che si approcciano al calcio, molto spesso in Italia finiscono le giovanili, vanno a giocare in C1 e pensano alla velina. Questo è un approccio sbagliato, però io credo che le discussioni intorno al calcio c'entrino poco, c'entra più una questione di mentalità o paura. Caro Beppe, con cui parlare è stato un piacere. Antonio da Milano, buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Parliamo troppo poco di calcio, Antonio. Sì, io volevo fare un intervento mirato alla campagna acquisti della Juventus, sono juventino, sì, e volevo un po'. Io, secondo me, la dirigenza juventina, compreso il buon Marotta, che doveva fare un po' il cambio di passo e contraddistinta, secondo me, da un po' da un dilettantismo allo sbaraglio, perché cioè, è diversi anni che si dice, vabbè, il nostro progetto è un progetto a medio-lungo termine, però così non mi sembra, perché ogni anno si cambia, non si dà ai giovani di crescere, si prendono sempre mezzi giocatori, si fanno investimenti, 15-20 milioni, magari sarebbe più appropriato prendere i giocatori come fa l'Arsena, per esempio, lo stesso Barcellona ha avuto un coraggio non indifferente a far giocare a volte giocatori in prima squadra. Però Antonio, io le dico una cosa, allora la cosa è questa, come dicevamo prima, uno dei grandi cruci in questi giorni in casa juventina è, oddio, si è fatto male Grigera e adesso che facciamo? Corriamo sul mercato a comprare qualcuno perché se no non abbiamo dove andare. Ora c'è Marco Motta e poi dico, ci sarà uno nel settore giovanile della Juventus che pure negli ultimi anni è nella difficoltà, nei tormenti di ciò che è successo eccetera eccetera, tutto sommato ha prodotto De Ceglia, ha prodotto Marchisio, ha prodotto Giovinco. Ebbene, ci sarà uno straccio di giocatore di fascia da mettere al posto dell'infortunato Grigera, che pure un fenomeno assoluto non è. Perché si fa male un giocatore come Grigera, corriamo al mercato. Ma non ce n'è un altro in casa? Ma no, questo appunto a me sembra, cioè io le dico, con tutto il male che si è detto della vecchia dirigenza, però cioè io devo dire che sapevano almeno costruire e programmare delle squadre, anche a livello giovanile. Però farei un distinguo, questa dirigenza della Juventus è diversa da quella degli anni passati. No, no, quello sicuramente, cioè, noi abbiamo, cioè, siamo stati puniti, è giusto che siamo stati puniti, però in merito della vecchia dirigenza dal punto di vista meramente sportivo. Ok, poi ne è arrivata un'altra che non ha costruito granché. Dal ritorno in Serie A in poi, adesso ce n'è una nuova e diversa che ha appena cominciato il suo lavoro. Sì, sì, solo che a me mi dà l'impressione che ogni anno si riparte da capo, non si dà. Sì. L'unico cruccio è questo, cioè io sono juventino, sono disponibile ad aspettare la squadra, ma si facciano giocare i giovani, si facciano crescere a questo punto, perché altrimenti non si va più da nessuna parte. Sì, no, su questo Antonio ripeto, l'impressione che non metterei tutto nella stessa pentola, perché per l'appunto questa dirigenza e questa Juventus ha cominciato a lavorare quest'anno. Non c'è dubbio sul fatto che molto tempo e molti soldi siano stati buttati via nelle stagioni precedenti, e come acquisti e come errori e come incapacità di costruire qualcosa di valido. C'è stato un notevole ritardo, e sono stati, ripeto, persi, sperperati molti quattrini, ed è inutile star lì a ripercorrere al rosario dei nomi di giocatori sopravvalutati che sono passati nella Juventus. Questa squadra, questa dirigenza, questa società ha appena cominciato a lavorare. Mi sembra che il prodotto non sia ancora di qualità massima. Mi sembra che questa Juventus non sia ancora competitiva in Europa, certamente, in Italia forse neanche, perché un paio di giocatori di livello mancano per essere davvero a livello dell'Inter, tanto per parlare chiaro. Però insomma, se partiamo da qui, qualche segnale c'è, perché un giocatore come Krasic non era arrivato alla Juventus nei tre anni precedenti. Penso sia stato il colpo migliore fatto dalla Juventus dal ritorno in Serie A. Ci fermiamo un attimo, poi volentieri continuiamo a parlare insieme. 800 24 00 24, numero verde.

suo allenatore attuale, lo ricordo bene anche perché l'ho rivisto ieri sera, l'ho rivisto per caso ieri sera, era Lazio-Chelsea anche lì di Coppa, partì quello sputazzone di Siniša Mihajlović sulla nuca di Mutu, risultato 8 giornate di squalifica, se non ricordo male, per Siniša Mihajlović, che ieri sera ha detto, e in questo io, guardate, io lo ammiro, perché di fronte a tutti quelli che fanno, continuano a fare retromarcia, a ritrattare, li trovi che dopati fino al midollo dicono no, ma io non c'entro, non ho fatto niente, sono un bravo ragazzo. Siniša Mihajlović ieri sera, con la sua bella faccia da zingaro per l'appunto, perché lui è fiero di esserlo, ha detto ma io ho fatto tante stupidaggini in vita mia, ma mai mi sono pentito, perché anche in quella volta Mancini mi disse ma cosa hai fatto, e io gli risposi ma Mancio, non mi rompere le palle che io lo rifarei, io sono così. Almeno uno che non ritratta le sue azioni, per quanto turpi possano essere. Stavamo discutendo di, all'inizio, anche con gli ascoltatori, di quel 10-0 olandese con il quale il PSV Eindhoven ha umiliato il Feyenoord, e dicevo prima, ma insomma, la cultura di certi paesi, ad esempio gli Stati Uniti, di certi sport, ad esempio il rugby, impone di non fermarsi di fronte alle difficoltà dell'avversario, o no, Giacomo Bagnasco? Ah, è così Carlo, impone di non fermarsi di fronte alle difficoltà dell'avversario, e questo viene considerato un segno di rispetto per l'avversario, certo, stesso. Quindi, nel senso che io ti affronto, e ti affronto perché ti rispetto, giocando al massimo, e tu prenderai una dura lezione, saprai che però tutti i punti, pochi o tanti che avrai segnato, te li sarai meritati, te li sarai sudati, e tutto sommato questo aiuta a crescere. Mi pare che con questo entriamo direttamente nel ragionamento che riguarda le squadre italiane. Quante ne hanno prese a sto giro? È andata male stavolta, si è andata male. Il Benetton Treviso ha perso in Irlanda col Munster 39-13, e gli Aironi hanno perso in Galles con i Dragons 36-5. C'è una differenza non da poco, che il Munster è primo in classifica, mentre i Dragons, che hanno battuto gli Aironi, fino ad ora erano penultimi, purtroppo in ultima posizione, lo ricordiamo, rimane questa franchigia lombardo-emiliana che ha perso 6 partite su 6, invece il Benetton è ancora più o meno a metà classifica, adesso è ottavo, era sesto, è sceso di un paio di posizioni. Ci sono due aspetti che però sono negativi, accomunano le due squadre. Il primo è la difficoltà incontrata dai pacchetti di mischia, almeno sabato. Per il Benetton questo è un segnale un po' strano, perché con i primi 8 uomini già l'anno scorso a livello internazionale la squadra biancoverde si faceva valere, invece nell'ultimo turno di Heineken con il Perpignan e contro il Munster la mischia ha sofferto non poco. Il secondo aspetto negativo è quello dei cartellini gialli, perché sicuramente gli arbitri ci guarderanno con attenzione e pignoleria, però sì, i gialli continuano ad arrivare, sono troppi, 2 i cartellini gialli per i giocatori del Benetton, 3 per i giocatori degli Aironi, e 1 sì, poi sì, si è trasformato in cartellino rosso perché Staibano ha avuto 2 ammonizioni, ricordiamo, sì, il cartellino giallo non è altro che l'ammonizione, così come c'è l'ammonizione nel calcio, certo, che però nel rugby si accompagna anche a 10 minuti di penalità, quindi una squadra rimane con un giocatore in meno per 10 minuti. Bisognerà mettere a posto, certo, parecchie cose, piano piano speriamo di arrivare, speriamo di vedere anche qualche buon segno nella nazionale che a novembre giocherà i suoi test match. Se posso, Carlo, aggiungo in mezzo minuto ancora una cosa, per una volta parliamo anche del campionato di eccellenza, per dire che nel rugby tutto cambia, però i derby sono sempre i derby. Allora oggi c'era, sia pure declassato quanto vogliamo, il famoso derby d'Italia, si giocava a Rovigo, Femici Z Rovigo, Petrarca Padova, Petrarca primo in classifica col vento in poppa, Rovigo in crisi nera, come è andata a finire? Rovigo 31, Petrarca 3, quindi questo è un segno che non ci si ferma. Il derby è ancora molto sentito ed è la più imprevedibile delle partite. Sì. Grazie Giacomo Bagnasco. 31-3 nel rugby non ci si ferma. Se l'avversario è in difficoltà, io insisto, fino all'estremo confine. Francesco da Como, poi Mario da Napoli. Francesco, buonasera. Sì, Buonasera, dottor Genta, e i complimenti sono d'uomo. Grazie. Per la trasmissione, ovviamente. Ascolti, innanzitutto una piccola cosa su Mutu, penso che dovrebbe stare anche un attimino calmino, visto che anche per via della causa intentata da parte del Chelsea nei suoi confronti, voglio dire, visto che la Fiorentina mi pare che lo stia aiutando anche, se non sbaglio, sì, anche sì, dal punto di vista economico. Ma Mutu dovrebbe stare calmino come persona. Appunto, a prescindere caso, anche dall'aiuto che sta ricevendo dalla Fiorentina, esatto, da quella causa, da quella sanzione, certo, che non ha precedenti. Poi non è un ragionamento, ma insultato allora gli spacco il naso, ma se facciamo tutti così, insomma, andiamo in giro con l'elmetto, no? Assolutamente, ecco. Sì, certo. Una piccola cosa sul Milan, visto che sono tifoso del Milan, visto che lei, ho notato che è sempre piuttosto critico nei confronti del Milan, nonostante tutto. L'altra sera in effetti ha meritato di perdere Madrid, per carità di Dio, però nonostante tutto le sue 3-4 occasioni da gol le ha create, nonostante tutto. Cioè, se noi facciamo il paragone con l'Inter lo scorso anno, che è andata a Barcellona e ha fatto fatica a superare la metà campo, in effetti. Ma anche il Milan non ha fatto fatica a superare la metà campo, però tira in porta pochini, Francesco, sì, pur essendo tifoso. Le 3-4 occasioni le ha create, dico io. Ricordo un tiro di Robinho. Sì, beh, la mancata diversione di Ibrahimovic sul cross di Inzaghi. Sì. Le possiamo contare, però la sensazione, Francesco, è quella di un Milan che non sia mai stato realmente in partita. Sì, ma per carità, ha meritato di perdere, però parliamo del Real Madrid, non è che ha giocato con Levski Sofia, voglio dire. Sì, però Francesco, qui vale l'appunto, vale l'appunto che fece. Lei ha ragione nel citare quel confronto, no, con l'Inter l'anno scorso. Io ricordo fui durissimo nei confronti dell'Inter, dicendo questa era una partita in cui devi dimostrare di essere d'Europa, perché da Europa, perché se hai la possibilità di far fuori Barcellona devi farlo, vai lì e non superi la metà campo, e lei ha ragione. Però se lei mi dice ma giocavamo contro il Real Madrid, ma questi sono i competitor che il Milan chiede, no? Perché se il Milan dice noi siamo una squadra da Champions League, secondo me non è vero, e la dimostrazione l'abbiamo avuta l'altra sera contro il Real Madrid. C'è una enorme differenza, secondo me, una differenza sempre più marcata, e questo è un tema strettamente calcistico, mi pare, per rispondere anche agli ascoltatori che dicono ma parlate sempre di questioni marginali, mai di calcio. Ebbene, un discorso calcistico è, c'è una differenza sempre più marcata tra le squadre che sono da corsa veramente in Europa, Real, Barcellona, Inter, Bayern di Monaco e Chelsea, secondo me, attualmente, al fixing attuale, e tutte le altre. Il Milan fa parte di tutte le altre, quindi questa è la sensazione che ho. Traffico. Strade in diretta. Si rallenta dopo un incidente sulla A3 in uscita da Napoli, tra Napoli Sud e Portici verso Salerno. Intenso il traffico sull'autosole tra Toscana e Lazio. Specie in direzione della capitale si formano code in prossimità delle due diramazioni, Roma Sud e Roma Nord. In aumento la circolazione ora anche attorno a Milano, lungo il tratto urbano della A4 nelle due direzioni, e poi tra Grumello e Bergamo per chi proviene da Brescia. Passiamo ai cantieri. Per lavori ci sono code sulla A14 Adriatica, tra Pedaso e Grottammare nelle due direzioni. Per altri lavori si rallenta sulla statale Aurelia, tra Cecina Nord e l'allacciamento con la A12 Genova-Livorno in direzione Livorno. Ed è tutto, a più tardi. Promo 24. Chiunque desideri investire in un futuro più sereno può acquistare le azioni di Enel Green Power, la società di Enel leader nelle energie rinnovabili, in vendita dal 18 al 29 ottobre. Con un prezzo compreso fra 1,80 euro e 2,10 euro per azione, si possono avere lotti minimi di 2.000 azioni, con la possibilità di sottoscrivere un lotto maggiorato di 20.000 azioni. Gli aderenti che conservano le azioni per 12 mesi avranno un'azione gratis ogni 20, e il prezzo definitivo sarà stabilito il 29 ottobre al termine del periodo d'offerta. Per i dettagli dell'offerta è nel greenpower.com oppure 800 13 23 23. Prima dell'adesione leggere il prospetto disponibile presso Enel Green Power, Borsa Italiana e collocatori. A tempo di sport. Mario Napoli, buonasera. Ciao, buonasera. Senta, mentre stavo viaggiando ho sentito una sua affermazione su che i napoletani durante la partita, anzi nella precedente alla partita Napoli-Liverpool, come se i napoletani si fossero divertiti, anzi sono entrati a picchiare delle famiglie inglesi. Un'affermazione molto pesante quella che ha detto. Perché non è vero. Napoletano. No, non i napoletani, lei sa benissimo. Allora, se vogliamo avere la coda di paglia, possiamo anche averla. Lei sa benissimo che non sto parlando di lei napoletano, sto parlando di quelli che sono andati a picchiare deliberatamente degli inglesi. Quindi, se lei vuole offendersi insieme alla Iervolino, faccia pure. Però, quello che voglio dire è che Il messaggio che abbiamo mandato è questo: arrivano gli inglesi e certi napoletani sono, non perché sono napoletani, certi deficienti, certi delinquenti sono andati a picchiare gli inglesi. Allora stiamo parlando, no, lei ha detto a picchiare delle famiglie inglesi. Hanno picchiato delle famiglie inglesi. Famiglie inglesi, quindi già è tutto un altro discorso. Per amor di Dio, deprecabile. Deprecabile, io sono un napoletano, sì. 100% napoletano. Perfetto. E le garantisco che sono state assicurate alla forza dell'ordine il giorno dopo 3 delinquenti, sì, napoletani. E gli altri? Quindi 3 delinquenti napoletani. Gli altri? Quindi gli altri? Mi auguro che siano tutti quanti messi intanto domani cambio. Domani sono a vedere Napoli-Milan e magari si picchiano con la polizia. No, ma io non dico i napoletani, Mario, ma siamo chiari, non deve offendersi in quanto napoletano, perché io dico questa cosa, io se fosse successo a Verona sono stati i veronesi, ma questo sono stati dei deficienti che non hanno patria, nemmeno, voglio dire, che siano serbi, che siano napoletani, che siano svedesi, il discorso è quello e lei mi ha capito benissimo, non sto dicendo che tutti i napoletani sono andati a picchiare gli inglesi, ma non scherziamo, però... Se vogliamo uscire da quanto ha detto il sindaco Iervolino, ma così le solite cose, no? Fanno male alla città di Napoli, eccetera, eccetera. 3 sono stati presi, tutti gli altri erano 200 giù di lì in vari punti della città. Ebbene, quegli altri sono ancora a piede libero. Hanno aspettato gli inglesi all'uscita delle metropolitane, si sono scontrati con la polizia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, non è il caso di prenderla sul personale, anzi sarebbe il caso di stigmatizzare in maniera un po' più dura di quanto ha fatto il sindaco Iervolino questi episodi, che non hanno nulla a che vedere con un agguato, un'offesa a Napoli, tutt'altro, e voi lo sapete benissimo, lo sa benissimo lei Mario, lo sa benissimo tutti gli ascoltatori. Io comunque la ringrazio, però sto andando un po' di corsa. Mario Poltroneri, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Carlo. Questo non è per evadere certi discorsi, è semplicemente che non abbiamo più tempo in scaletta. Mario, ti volevo chiedere solo un commento sulla corsa di oggi, per un'altra cosa che mi fa abbastanza alterare. La Red Bull ha la macchina più forte e perderà questo mondiale, l'abbiamo detto mille volte, e fossi chi mette i soldi nella Red Bull diventerei matto. Beh, diciamo innanzitutto che Alonso aveva detto: per vincere il mondiale mi basta arrivare sempre al podio. Oggi ha fatto un'operazione veramente eccezionale, perché la Ferrari è ancora leggermente inferiore alla Red Bull. Quindi lui è stato sornione quanto bastava, e ha avuto anche, diciamo, la piccola fortuna che il motore di Vettel, come era prevedibile del resto, ha ceduto, perché ormai se siamo a fine stagione e gli automotori per piloti ormai sono già abbastanza malmessi, sì. Quindi c'è anche questa difficoltà che complica ulteriormente le cose, però con il risultato di oggi ha fatto un balzo in avanti e effettivamente lo propone come il favorito, sì. Adesso si tratta di vedere i prossimi 2 circuiti come andranno. Della corsa di oggi diciamo che si può lamentare questo inizio, che francamente con tanta safety car non è stato proprio spettacolare, certo. Consola poi il fatto che però la Ferrari ha fatto prima e terzo, sì. Ma, sai, d'altra parte anche l'architetto Tilke aveva detto: a causa di 52 giorni di pioggia non abbiamo potuto mettere l'asfalto drenante, perché sennò le ruote delle vetture l'avrebbero sollevato. Quindi abbiamo dovuto mettere questo, che purtroppo ha portato alle difficoltà di partenza, ma poi, come vi dico, è stata una corsa veramente divertente. Tieni presente che su 24 partenti 9 sono ritirati, di cui solo 2, uno per incidente, certo. E 2 per incidente e gli altri tutti per uscire di strada, certo. Quindi si vede che è una corsa divertente. Alonso ha fatto un capolavoro straordinario, ma anche perché io continuo a ripetere: l'unico pilota che è in grado di fare davvero la differenza, e alla fine vedrete, vincerà questo mondiale. Ferrari, stivate pure gli scongiuri, vincerà questo mondiale battendo una macchina più forte, e questo è il capolavoro di Alonso della Ferrari, e questo è il prodotto dell'autolesionismo Red Bull, perché io continuo a pensare che due piloti sullo stesso piano, su una stessa macchina, non stiano né in cielo né in terra se non si vuol perdere il mondiale, come in questo caso succederà alla Red Bull. Mario Poltroneri, io ti ringrazio, devo ancora 2 minuti soltanto per salutare mio amico Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Ciao Filippo, buon pomeriggio e beato te che di gol ne vedi. Sì, Adesso no, con Real Madrid solo 16 nelle ultime tre giornate, chi diceva che, no, che Mourinho ha fatto, era sparagnino. Ha fatto un po' in fretta Mourinho, cosa dici? Sì, si è adattato molto bene e ha fatto adattare anche un po' tutti i suoi metodi e sì, io diciamo non dubitavo del fatto che potesse avere successo, però non pensavo lo facesse tanto in fretta, anche se, come dice lui, non abbiamo ancora fatto nulla e via a lavorare. Filippo, io stasera torno a casa e mi guardo una partita del Murcia, spero che i miei giocatori facciano altrettanto. Murcia, squadra di Serie C che affrontano martedì sera in Coppa del Re, no? E dopo il grande monito dice: se a me i giocatori mi fanno una cosa come quella dell'Alcorcón, no? La squadra che l'anno scorso vinse 4-0 col Madrid in casa in Coppa del Re, dice: io gli metto la croce sopra, dice, con me hanno chiuso. E c'è da credergli, farebbero bene a credergli. Esatto. Una battuta sola, il Milan che hai visto l'altra sera, quanto vale? A livello molto europeo? Poco, se non cambiano, molto poco rispetto a questo Madrid per dinamismo. E il problema è che non si possono concedere 50 anni anagrafici a questo Madrid. Il Milan aveva un giocatore sotto i 28 anni, il Real Madrid ne aveva due sopra i 28 anni e a quel punto, soprattutto lì, cioè, considerando che i tre davanti non tornano neanche a comprarsi il caffè, il povero Pirlo soffriva avendo al lato Gattuso e Seedorf, senza nulla togliere ai singoli, però questa era una partita con un Madrid di questo tipo, così veloce, così rapido, così potente, bisognava insomma puntellare, certo. Quello è mancato il dinamismo, c'era una differenza di età e di corsa eccessiva e secondo me ha ragione Galliani, è andata bene insomma. È andata bene perché potevano essere 5 o 6 e Real Madrid non si sarebbe fermato esattamente come ha fatto oggi PSV Eindhoven. Grazie a Filippo Variarici dalla Spagna, chiacchierata anche troppo rapida per i miei gusti, ma domenica prossima ci rifacciamo. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Torniamo naturalmente più tardi dalle 8:30 alle 9 per raccontarvi tutto dai campi di basket. A tempo di sport.